Ad alta voce. Maria Paiato legge Amuleto di Roberto Bolaño. Traduzione di Ilide Carmignani. Quarta puntata. Io avevo ricordi. Io vivevo rinchiusa nel bagno delle donne della facoltà. Vivevo incastrata. Nel mese di settembre del 1968 e quindi potevo vederli senza passione. Anche se a volte, fortunatamente, giocavo con la passione e con l'amore. Perché non tutti i miei amanti sono stati platonici. Io sono andata a letto con i poeti, non con molti, ma con alcuni sì. Ero, malgrado le apparenze, una donna e non una santa. E di certo sono andata a letto con più di un poeta. La maggior parte furono amori di una sola notte. Giovani ubriachi che trascinai su un letto o sulla poltrona di una stanza appartata, mentre nella stanza vicina risuonava una musica fantastica che ora preferisco non rievocare. Altri, la minoranza, furono amori disgraziati che durarono, sì, più di una notte, di un fine settimana, ma in cui ebbi un ruolo più da psicoterapeuta che da amante. In ogni modo, non mi lamento. Dopo aver perso i denti mi imbarazzava dare o ricevere baci, e quale amore può resistere a lungo se non ti baciano in bocca? Comunque andai lo stesso a letto con qualcuno e feci l'amore con molta voglia. La parola chiave è voglia. Bisogna averne voglia per fare l'amore. Bisogna averne anche l'occasione, ma soprattutto bisogna averne voglia. A questo proposito c'è una storia di quegli anni che forse vale la pena raccontare. Conobbi una ragazza in facoltà. Successe nel periodo in cui avevo la fissa del teatro. Era una ragazza incantevole. Aveva finito filosofia. Era molto colta e molto elegante. Io mi ero addormentata in una poltrona del teatro della facoltà, un teatro praticamente inesistente, e sognavo la mia infanzia o gli extraterrestri. Lei mi si sedette accanto. La platea naturalmente era vuota. Sul palcoscenico un gruppo penoso provava un'opera di García Lorca. Non so in che momento mi svegliai. Lei allora mi disse: «Tu sei Auxilio alla Couture, vero?» E me lo disse con tanto calore che mi rimase subito simpatica. Aveva la voce un po' roca, i capelli neri pettinati all'indietro, non molto lunghi. Poi disse qualcosa di divertente, o fui io a dire qualcosa di divertente, e ci mettemmo a ridere, piano, perché non ci sentisse il regista, un tipo che nel 68 era stato amico mio, ma che adesso era diventato un cattivo regista, e lo sapeva, e trasudava astio nei confronti di tutti. Poi uscimmo insieme nelle strade di Città del Messico. La ragazza si chiamava Elena e mi offrì un caffè. Disse che aveva molte cose da dirmi. Disse che aveva voglia di conoscermi da tanto. Uscendo dalla facoltà mi resi conto che era zoppa. Leggermente, ma si notava. Elena la filosofa. Aveva una Volkswagen e mi portò in un caffè. Io non c'ero mai stata prima in quel caffè. Era un posto incantevole e molto caro. Ma Elena aveva tanti soldi e una gran voglia di parlare con me, anche se alla fine fui io l'unica a parlare. Lei ascoltava e rideva e sembrava felice, contenta, però non parlò molto. Quando ci separammo pensai: ma che cos'è che doveva dirmi? Di cosa mi voleva parlare? A partire da allora, ogni tanto ci incontravamo, a teatro o nei corridoi della facoltà, quasi sempre al tramonto. Quando sull'università inizia a calare la sera e certe persone non sanno dove andare né cosa fare delle loro vite, incontravo Elena ed Elena mi invitava a bere qualcosa o a mangiare in qualche ristorante. Una volta mi invitò a casa sua, a Coyoacán, una casa splendida, piccola ma splendida, molto femminile, molto intellettuale, piena di libri di filosofia e di teatro, perché Elena pensava che la filosofia e il teatro fossero molto legati. Una volta me ne parlò, ma io non capii quasi nulla. Per me il teatro era legato alla poesia, per lei alla filosofia. Ognuno ha le sue fisse. Poi da un giorno all'altro non la vidi più. Non so quanto tempo passò, mesi forse. Naturalmente domandai ad alcune segretarie della facoltà che fine avesse fatto Elena, se era ammalata o in viaggio, se avevano qualche notizia. E nessuno seppe darmi una risposta convincente. Un pomeriggio decisi di andare a casa sua, ma mi persi. Era la prima volta che mi succedeva una cosa simile. Dal settembre del 68 non mi ero mai persa in quel labirinto che è Città del Messico. Prima sì, prima mi capitava di perdermi. Non molto spesso, ma mi capitava. Dopo no. E ora ero lì e cercavo la casa di Elena, ma non la trovavo. E allora mi dissi: qui sta succedendo qualcosa di strano. Auxilio, bambina mia, apri bene gli occhi e stai attenta ai dettagli, non sia mai che ti perdi la cosa più importante di questa storia. E così feci. Aprì bene gli occhi e vagai per Coyoacán fino alle 11:30 di sera, sempre più persa, sempre più cieca, come se la povera Elena fosse morta o non fosse mai esistita. Passò del tempo. Io abbandonai il mio posto di tutto fare teatrale. Tornai dai poeti. E la mia vita prese una direzione che è inutile spiegare. L'unica cosa certa e che smisi di assistere quel regista ex santottino, non perché la messa in scena mi sembrasse brutta, anche se lo era, ma perché ero stufa, perché avevo bisogno di tirare il fiato e di vagabondare, perché il mio spirito chiedeva un altro tipo di inquietudine. E un giorno, quando meno me lo aspettavo, incontrai di nuovo Elena. Successe nel bar della facoltà. Io ero lì a improvvisare un sondaggio sulla bellezza degli studenti. E di colpo la vidi, a un tavolo appartato, in un angolo. E anche se al principio mi sembrò sempre la stessa, man mano che mi avvicinavo, un avvicinamento che non so perché, dilatai, fermandomi a ogni tavolo e intrattenendo conversazioni brevi e abbastanza imbarazzate, notai che in lei qualcosa era cambiato, anche se in quel momento non avrei saputo dire cosa. Quando mi vide, lo giuro, mi salutò con lo stesso affetto e la stessa simpatia di sempre. Era, non so come spiegarlo, forse più magra, ma in realtà non era più magra, forse più smonta, anche se in realtà non era più smonta, forse più silenziosa. Ma mi bastarono 3 minuti per rendermi conto che non era nemmeno più silenziosa. Può darsi che avesse le palpebre gonfie. Può darsi che avesse tutta la faccia un po' più gonfia, come se stesse prendendo il cortisone. Ma no, i miei occhi non mi potevano ingannare. Era sempre la stessa. Quella sera non mi separai da lei. Restammo un po' nel bar, che si andò svuotando di studenti e professori, e alla fine rimanemmo solo noi due e la donna delle pulizie e un uomo di mezza età, un tipo molto simpatico e molto triste che serviva al banco. Poi ci alzammo. Lei disse che il bar a quell'ora le sembrava sinistro. Io non volli esprimere la mia opinione, ma adesso non vedo motivi per non farlo. Il bar a quell'ora mi sembrava magnifico, malconcio e maestoso, povero e liberissimo, attraversato dagli ultimi bagliori del sole della valle. Un bar che mi chiedeva in un sussurro di restare lì fino alla fine e di leggere una poesia di Rimbaud. Un bar per cui valeva la pena piangere. E salimmo sulla sua auto. E quando avevamo già fatto un bel pezzo di strada, lei disse che mi avrebbe presentato un tipo straordinario. Disse così, straordinario. Auxilio, mi disse, voglio che tu lo conosca e poi tu mi dia la tua opinione. Anche se io mi resi conto all'istante che la mia opinione non le interessava minimamente. E disse anche, dopo che te l'ho presentato però te ne vai, perché ho bisogno di parlare da sola con lui. E io dissi, certo Elena, come no, tu me lo presenti e io me ne vado, a buon intenditor poche parole. E poi stasera ho da fare. Ah, cos'hai da fare? Disse lei. Devo vedere i poeti di Avenida Bucarelli, dissi io. E allora scoppiamo a ridere come due sceme. E per poco non andammo a sbattere con la macchina. Ma io dentro di me pensavo e ripensavo e ogni volta che pensavo vedevo che Elena non stava bene. Senza capire cos'era oggettivamente che me la faceva vedere così. E a quel punto eravamo ormai arrivate in un locale della zona rosa, una specie di osteria di cui ho dimenticato il nome, ma che si trovava in Calle Varsovia ed era specializzata in formaggi e vini. Era la prima volta che andavo in un posto del genere, voglio dire, un posto così caro. E a essere sincera, mi venne di colpo un appetito tremendo, perché io sono magra come un chiodo, ma quando si tratta di mangiare divento la ghiottona più impenitente del Cono Sud, la Emily Dickinson della bulimia, specie se ti mettono in tavola una varietà di formaggi incredibili e una varietà di vini che ti fanno tremare da capo a piedi. Non so che espressione feci, ma Elena ebbe pietà di me e mi disse, resta a mangiare con noi, anche se sotto banco mi diede una gomitata che significava resti a mangiare con noi, ma poi te ne vai al volo. Io restai a mangiare con loro e a bere con loro e assaggiai una quindicina di formaggi diversi e bevvi una bottiglia di Rioja e conobbi l'uomo straordinario, un italiano che era in Messico di passaggio e che era amico, diceva, di Giorgio Strehler e che mi trovò simpatica. O almeno questo deduco adesso, perché la prima volta che dissi che dovevo andare lui ribatté, resta Auxilio, che fretta hai? E quando per la seconda volta dissi che dovevo andare lui disse, non andartene donna dalla conversazione prodigiosa, o disse esattamente così. La notte è giovane. E quando dissi per la terza volta che dovevo andare, lui disse, basta con tutte queste storie, Auxilio, che c'è? Elena e io ti abbiamo forse offeso? E allora Elena mi diede un'altra gomitata sotto banco e la sua voce perfettamente serena e dal timbro gradevole disse, resta Auxilio, poi ti do io un passaggio dove devi andare. E io li guardavo e annuivo in estasi per il formaggio e il vino e non sapevo più che fare, se andarmene o non andarmene, né se l'offerta di Elena voleva dire quello che voleva dire oppure no. E in quel dilemma decisi che la cosa migliore che potevo fare era starmene zitta e ascoltarli. E così feci. L'italiano si chiamava Paolo. E con questo credo di aver già detto tutto. Era nato in un paesello vicino a Torino ed era alto 1,80 m. Aveva lunghi capelli castani e una gran barba. Ed Elena, come qualunque altra donna, poteva perdersi senza problemi fra le sue braccia. Era uno studioso di teatro, moderno, ma non era venuto in Messico per studiare nessuna rappresentazione teatrale. In realtà, l'unica cosa che faceva in Messico era aspettare un visto e una data per andare a Cuba a intervistare Fidel Castro. Aspettava già da un pezzo. A un certo punto gli chiesi perché ci mettevano tanto e mi disse che i cubani prima volevano studiarlo. Non è che potesse avvicinarsi chiunque a Fidel Castro. Era già stato un paio di volte a Cuba e questo, secondo lui, ed Elena confermava, lo rendeva sospetto agli occhi della polizia messicana, ma io non vidi mai ronzagli attorno nessun poliziotto. Se li vedessi, ribatteva Elena, vorrebbe dire che sono dei pessimi poliziotti, mentre Paolo è sorvegliato dai servizi segreti. Il che ovviamente era un punto in più a mio favore, perché eri saputo che gli agenti dei servizi segreti sono quelli che più assomigliano a se stessi. Un poliziotto della stradale, per esempio, se gli togli l'uniforme, può somigliare a un operaio. Certi sembrano addirittura dei leader sindacali, ma un agente dei servizi segreti ti darà sempre l'aria di un agente dei servizi segreti. Da quella sera diventammo amici. Il sabato e la domenica andavamo tutti e tre a teatro gratis alla Casa del Lago. A Paolo piaceva vedere i gruppi di teatro amatoriale che recitavano in quello spazio all'aria aperta. Elena si sedeva in mezzo e appoggiava la testa sul braccio di Paolo e non tardava ad addormentarsi. A Elena non piacevano gli attori dilettanti. Io mi sedevo a destra di Elena e in realtà prestavo ben poca attenzione a quello che succedeva sulla scena perché passavo tutto il tempo a cercare di scoprire un agente della polizia segreta. E a dire il vero, ne sorpresi non uno, ma diversi. Quando lo dissi a Elena, lei scoppiò a ridere. «Non può essere Auxilio», mi disse, «ma io sapevo di non sbagliare». Poi capì la verità. La Casa del Lago, il sabato e la domenica, si riempiva letteralmente di spie. Però non erano tutte sulle tracce di Paolo. La maggior parte era lì a sorvegliare altre persone. Di queste ne conoscevamo alcune per via dell'università o dei gruppi teatrali indipendenti e le salutavamo. Altre non le conoscevamo affatto e potevamo solo immaginare e compatire l'itinerario che avrebbero seguito insieme ai loro inseguitori. Non mi ci volle molto a rendermi conto che Elena era innamoratissima di Paolo. «Cosa farai quando alla fine andrà a Cuba?» le chiesi un giorno. «Non lo so», mi disse. E sul suo visetto solitario di bambina messicana mi parve di vedere una luce o una desolazione che avevo già visto altre volte e che non portava mai niente di buono. L'amore non porta mai niente di buono. L'amore porta sempre qualcosa di meglio, ma il meglio a volte è il peggio. Se sei una donna e se vivi in questo continente che per colmo di sventura è stato scoperto dagli spagnoli dopo che per colmo di sventura era stato popolato da asiatici finiti fuori strada. Ecco cosa pensavo. Rinchiusa nel bagno delle donne al quarto piano della facoltà di lettere e filosofia nel settembre del 1968. Pensavo agli asiatici che avevano attraversato lo stretto di Bering. Pensavo alla solitudine dell'America. Pensavo a quanto è curioso migrare verso est e non verso ovest. Perché io sono scema e non so niente sull'argomento, ma nessuno negherà in questi tempi convulsi che migrare verso est è come migrare verso la notte più nera. Ecco cosa pensavo. Seduta per terra, con la schiena appoggiata alla parete e lo sguardo perso sulle macchie del soffitto. Verso est, verso il punto da cui arriva la notte, ma poi pensai, è anche il posto da cui nasce il sole. Dipende dall'ora in cui i pellegrini hanno iniziato la marcia. E allora mi diede un colpo in fronte, un colpo debole, perché dopo tanti giorni senza mangiare mi mancavano le forze. E vidi Elena che camminava in una strada solitaria del quartiere Roma. Vidi Elena che camminava in direzione est, verso la notte più nera, sola, zoppicando, ben vestita. La vidi e le gridai «Elena!», ma dalle mie labbra non uscì alcun suono. E poi Elena si voltò verso di me e mi disse che non sapeva cosa avrebbe fatto. Forse sarebbe andata in Italia, forse avrebbe aspettato che lui venisse un'altra volta in Messico, non lo so, mi disse sorridendo. E io capii che sapeva benissimo cosa avrebbe fatto. E non le importava. L'italiano da parte sua si lasciava amare e portare in giro per Città del Messico. Non ricordo più in quanti posti andammo insieme. E ovunque l'italiano era felice e anche Elena era felice. Ed ero felice anch'io. Perché mi è sempre piaciuto andare in giro e stare in compagnia di persone felici. Maria Paiato ha letto Amuleto di Roberto Bolaño, traduzione di Ilide Carmignani, regia di Luigi Iavarone, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.